Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, all'ultimo appuntamento della stagione il programma prevede di parlare di vocazioni e del rapporto fra l'artista, la comunità e la replica, di correttezza, nonché di lingue utopiche.